Nell'aria serena dopo una tempesta, per l'aria fresca farà già una festa. Che bella cosa una giornata sole, ma sotto fe.